4C. Ascolta e trasforma. Luca è in America. Luca e Giorgia sono in America. Carla è a casa. Carla e Giorgia sono a casa. Sergio è a scuola. Sergio e Giorgia sono a scuola. Mina è in piazza. Mina e Giorgia sono in piazza.